1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza signori, che la 161esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata e siamo pronti qui alle 7:20 minuti a 24 mattino a leggere i giornali. Anche le mega venerdì, anche le proprie lunedì, no! Capita, capita. Sono cose che capitano, oserei dire. Allora, in questo lunedì 30 maggio, se ne va anche maggio ormai, il titolo di apertura del Sole 24 Ore dedicato alle amministrative, elezioni, la carica dei 77.000, le urne aperte ormai domenica prossima, 1.342 comuni, sapete quanti sono i candidati sindaci, 3.602, insomma tutti i numeri sul Sole 24 Ore. Altri numeri invece di tragedie continue sono quelli che aprono gli altri quotidiani, vale a dire i migranti. Corriere della Sera, migranti 70 in ogni provincia, è il nuovo piano del Viminale, cioè il Ministero dell'Interno. Repubblica, emergenza sbarchi, mancano le navi, è strage di bambini. L'ONU dice 700 morti, tra cui 40 bimbi, negli ultimi 3 naufragi. Per la Stampa, così raccogliamo i morti in mare, parlano i soccorritori della Marina davanti alla Libia. Anche per il Messaggero, migranti, 80 province mobilitate, circolare del Viminale alle prefetture, reperire al più presto 5.600 posti per l'emergenza. Anche il Giorno, migranti, strage di bimbi. Il Secolo XIX, caos profughi a Ventimiglia. Come vedete, dove si va è caos. Per Libero invece una pensione su 3 è un bidone, occhio ai conti sbagliati dell'INPS. Il Fatto Quotidiano, le bugie arrivano per posta, verso ottobre nelle case degli italiani arriverà l'opuscolo sui successi del governo. Anche l'Unità apre sulla omissione europea nel Mediterraneo, strage di bimbi e neonati. Mentre il Giornale ha in prima pagina Renzi si vergogna dei Marò, la figuraccia nazionale, e secondo il Giornale la figuraccia perché Renzi dice, a mio modo di vedere ha ragione, i fucilieri non saranno alla parata del 2 giugno, non sono bandierine da esibire. E sulla questione dei Marò io veramente invocherei ora un pochino di silenzio, un pochino, mamma mia. Perché sentite qui cosa succede, per esempio, sul Corriere della Sera. L'intervista al papà di Girone. Ovviamente Girone non parla, anche se racconta il Corriere della Sera con Virginia Piccolillo, non si nega una passeggiata lungomare nel suo quartiere, raccoglie l'affetto, i sorrisi e le pacche di incoraggiamento, la moglie che lo protegge. E c'è l'intervista al papà di Girone, Michele Girone, che tra l'altro fa notare un po' polemicamente che l'altro Marò, la Torre, non era ad accogliere il suo compagno all'arrivo in aeroporto. L'ha chiamata la Torre? Assolutamente no, Giallo. A dire il vero non lo sento da tempo e mi auguro che stia bene con le terapie. So che la situazione è stata anche piuttosto seria. E quindi non è venuto a Ciampino? No, non è venuto. E qui lascia sospeso un Giallo, un qualche rapporto forse che si è un po' interrotto tra le due famiglie. Poi nella lunga intervista al padre di Girone c'è anche la domanda: e cosa ha preparato sua moglie per il primo pranzo all'arrivo in Italia? Eccolo qui. Noi viviamo in un quartiere di mare e quindi pesce. E naturalmente cozze pelose. Ah, va bene, tutto ciò a pagina 4 del Corriere della Sera. Ma la vicenda dei Marò, abbiate pazienza, lentamente passerà anche il 2 giugno e poi rientrerà in quello che dovrebbe essere, come dovrebbe essere trattata, cioè qualche trafiletto sui giornali, insomma la vicenda forse si avvia a conclusione, a meno di attenzione mediatica, a meno che non si riaccenda per il processo, o vedremo. Va bene, lasciamo la questione girone, veniamo invece a un sondaggio che mi ha incuriosito, l'indagine Demoscope che è pubblicata a pagina 13 del quotidiano Repubblica e commentata da Ilvo Diamanti, e che riguarda l'incertezza sul futuro per quel che riguarda gli italiani. Due persone su tre, cari italiani, si sentono di fatto pessimisti. Per due italiani su tre è inutile fare progetti a lungo termine. L'incertezza sul futuro, la fine della classe media, gli italiani si sentono su un ascensore in discesa. Scrive Ilvo Diamanti, siamo diventati pessimisti. Nonostante i nostri governi da oltre 20 anni cerchino di tirarci su di morale, prima Berlusconi, oggi Renzi. Eppure, nonostante tutto, la maggioranza degli italiani non ci crede, non riesce a percepire, ad accettare questo cambiamento. Lo suggeriscono i dati del sondaggio Demoscope, condotto alcune settimane fa. Infatti, due italiani su tre ritengono che sia inutile fare progetti per sé e per la propria famiglia, perché il futuro è incerto e carico di rischi. Insomma, e qui c'è l'analisi poi metodologica di questo sondaggio che trovate spiegato su Repubblica a pagina 13. Non certo incoraggiante, ma d'altronde è lunedì, cari ascoltatori, e quindi le notizie sono anche queste. Per esempio, non è certo incoraggiante quello che si legge sul Giorno a pagina 9. 1,5 milioni di italiani hanno dovuto restituire il bonus degli 80 euro. Questa notizia, devo dire, l'avrei voluta trovare in risalto su vari giornali, e invece solo Alessia Gozzi sul Giorno dà risalto, una pagina a questo: i beffati dal bonus, i costretti a restituirlo. È accaduto a 1,4 milioni italiani che nel 2015 hanno ricevuto lo sconto IRPEF da 80 euro in busta paga e poi sono stati costretti a rinunciarvi. E perché? Perché non ne avevano diritto. Essenzialmente due sono i motivi. A fine anno si sono ritrovati un reddito superiore al limite di 26.000 euro lordi, quello che dava il diritto ad avere questo sconto, oppure ci sono stati errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi sul modello 730 precompilato. Nel primo caso rientra ad esempio a chi era già vicino al limite e magari con gli straordinari ha sforato questo limite e non ha comunicato altri redditi. Il credito infatti viene attribuito dal datore di lavoro in busta paga esclusivamente sulla base del reddito da lui erogato. In sede di dichiarazione invece era necessario procedere al ricalcolo del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati. E poi appunto gli errori. Sta di fatto che un conto da 750 milioni di persone, di italiani, 1,4 milioni che hanno dovuto restituire il bonus da 80 euro. Non saranno molto molto contenti. Vi segnalo che su Libero, in un'intervista straordinaria come sempre di Giancarlo Perna, rispunta Claudio Scajola. Claudio Scajola parla della casa, di Lady Matacena, dei suoi rapporti con Silvio Berlusconi. Ah, della casa mi ha incuriosito molto questo, la famosa casa, sua insaputa, vista Colosseo. Dopo l'assoluzione, che ha fatto della casa pagata a sua insaputa dal costruttore Anemone? L'ho venduta rifacendomi di quanto avevo pagato col mutuo, più le spese di ristrutturazione e quelle dei condoni ottenuti perché neppure era in regola. Ah, pure. Vabbè, questo Claudio Scajola, che poi sentite cosa dice anche della celebre, è un'intervista che ripercorre un po' tutta la sua vita, la sua carriera, della celebre frase quando diede rompicoglioni a Marco Biagi, poi ucciso dalle Brigate Rosse. Col senno di poi avrebbe concesso la scorta a Marco Biagi? Non è il ministro dell'interno che decide la scorta. Se fossi stato avvertito del pericolo che correva Biagi, avrei subito informato gli organi preposti. Ma nessuno lo ha fatto. Vabbè, vuole scusarsi per quel rompicoglioni? L'omicidio Biagi, dopo la morte improvvisa di mio padre a 14 anni, è stato il dolore più grande della mia vita. Quella frase, inopportuna e sgradevole, non apparteneva al mio pensiero. Come non apparteneva al mio pensiero? Ossia, l'ho detta io, ma era il pensiero di altri. Non ho mai conosciuto Biagi e non potevo perciò darne quel giudizio. E dunque, insomma, c'è anche questa. La frase non a mia insaputa, ma la frase a saputa di altri. Cioè si è fatto ventriloquo del pensiero però di altri, dice Claudio Scajola. In questa intervista la trovate sul Libero, l'ex ministro incriminato 13 volte e 13 volte assolto peraltro. No, oddio, c'è ancora in ballo un processo che dice lui è di tentativo di procurata in osservanza di pena per la vicenda Matacena, gli arresti in Dubai, ma per tutte le altre vicende giudiziarie sono state diciamo a vantaggio dell'ex ministro Scajola. Ma siamo al premio Mani sul volante, l'articolo che mi fa pensare della giornata, e va ai furbetti della legge 104 nelle scuole, nel mondo della scuola, tema che abbiamo affrontato varie volte. Scrive il Messaggero: ora parte il piano antifurbetti, speriamo, speriamo. Il record di professori che utilizzano la legge 104, quella che serve per assistere i parenti malati o disabili. Vi dico solo una percentuale. Nel privato, chi usufruisce della legge 104? L'1,5% dei dipendenti. 1,5%. Sapete quali sono i dati nella scuola? Il 13%. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il cioccapiatti dell'informazione. Si sa, evviva il cioccapiatti. Allora, cari ascoltatori, molti giornali aprono ancora sul dramma dei migranti morti in mare. Sono tanti, secondo l'ONU 700 solo in questi giorni, in questi ultimi naufragi, e tra questi 700 ci sarebbero anche 40 bimbi. Tra l'altro, il Corriere della Sera, così come il Messaggero, raccontano del nuovo piano per il Ministero dell'Interno, messo a punto dal Ministero dell'Interno per cercare di far fronte a questa situazione. Il nuovo piano per l'accoglienza, Fiorenza Sarzanini lo racconta a pagina 2 del Corriere della Sera. C'è da dire che a fianco al nuovo piano c'è anche un'accusa abbastanza evidente nei confronti della nostra intelligence, anzi definito il flop dell'intelligence, nonostante la presenza di 007 italiani in Libia e l'attenzione massima anche internazionale che in questo momento viene dedicata alla possibilità di stabilizzare quel paese, non c'è stato alcun allarme specifico indirizzato ai vertici del ministero italiano per gli sbarchi di questi giorni, e ora il sistema rischia di andare in tilt. E allora come risponde l'Italia? Con una circolare urgente diramata dal Viminale che per farsi carico di fronteggiare la situazione eccezionale viene chiesto un trasferimento di 70 migranti per ogni provincia, in modo da non gravare solo su regioni e comuni. L'idea è anche quella di ricorrere ai beni demaniali. Ormai si parla di limite della capienza ai centri al collasso e quindi, se gli sbarchi dovessero continuare, bisogna mettere a punto un nuovo piano, utilizzare le strutture demaniali che finora sono state evitate, prima fra tutte le caserme. Tra le ipotesi allo studio c'è anche quella che prevede l'uso di beni confiscati alle organizzazioni criminali, oppure l'idea di tendopoli. Insomma, la situazione appare sempre più, dal punto numerico, grave. Dal punto di vista poi sia sanitario che di sicurezza, altrettanto grave, come si racconta a pagina 3, i superstiti raccontano di donne che sono nei loro viaggi verso l'Europa violentate. Accade soprattutto in Libia, dove ci sono dei centri cosiddetti di smistamento che poi sono centri di detenzione. Ci sono anche non solo le donne violentate secondo testimoni, anche i ragazzi, soprattutto i giovanissimi violentati. E poi ovviamente ci sono i morti, quelli che non ce la fanno. Eccolo qui anche sul Messaggero il nuovo piano per l'accoglienza. Oltre 5.600 sono gli immigrati da ricollocare subito. 5.600. Grazia Longo invece per La Stampa raccoglie le testimonianze di chi ha raccolto le vite e ha salvato le vite in mare della Marina Militare. Purtroppo non ha solo salvato vite, ha anche raccolto cadaveri. Grazia Longo, in prima pagina della Stampa. Alla fine quel che resta di tutto lo sforzo per salvare i diseredati che sfidano il mare alla ricerca dell'Eldorado sono 45 sacchi neri a dimensione umana sul pontile. Più una menzogna. Di quelle vite spezzate nessun migrante ha saputo nulla fino al momento dello sbarco. Non bastano il sorriso e l'urlo di gioia dei tanti sopravvissuti a far dimenticare quei 45 corpi che galleggiavano a 3 ore di mare dalla Libia, a 10 da Lampedusa. Una maglietta del Real Madrid rigonfia d'acqua, l'infradito blu, un biberon accanto a un fagottino che non puoi rassegnarti a credere un bimbo di pochi mesi. 45 vite sospese, ripescate dal mare che inghiotta i sogni e la speranza venerdì mattina alle 10.30 e restituite alla terraferma ieri al porto di Reggio Calabria. Dice il comandante della nave della Marina Militare Vega, tenente di vascello Raffaele Martino: ho ancora quelle immagini impresse negli occhi. Venerdì eravamo reduci da 3 operazioni notturne. Complessivamente avevano tratto in salvo già 474 persone. Era filato tutto liscio. E poi invece quello strazio, i cadaveri in mare. Insomma, si salvano persone, ma purtroppo si portano anche sulla terraferma morti. Tra l'altro, La Stampa racconta con Fabio Martini, prima pagina, retroscena, il silenzio di Renzi sui morti, il timore per il caos in Libia. Insomma, anche politicamente questo è un dossier da gestire molto delicatamente. Parlare non parla, scrive Fabio Martini. Sull'angoscioso infittirsi degli ultimi giorni di sbarchi e morti, il loquacissimo presidente del Consiglio per una volta preferisce non aggiungere altre parole in pubblico. Ma in sede più riservata, Matteo Renzi riconosce che è stata una settimana terribile, anche perché da ieri sera non è più vero quel che Renzi, numeri alla mano, ripeteva da settimane, cioè non siamo all'emergenza. La quantità di migranti approdati in Italia dal 1 gennaio è inferiore a quelli arrivati nello stesso periodo del 2015. Vero fino a sabato mattina, ma da ieri sera quella constatazione del capo del governo è meno vera, perché secondo i dati dell'ONU la quantità di migranti approdati in Italia dall'inizio 2016 è salita a 46.000, a questo punto in sostanziale equilibrio coi numeri dello scorso anno. Ed ecco allora il silenzio di Renzi sui morti, il timore per il caos in Libia, è il titolo dell'articolo di Fabio Martini, prima pagina della Stampa. In tutto questo c'è la politica. È l'ultima settimana prima delle amministrative, si vota domenica e tutti i numeri sono sul Sole 24 Ore. Quanti sono i candidati sindaci? Pensate che sono 77.000 i candidati in generale, 3.602 i candidati sindaci. Il primato è a Torino, 17 candidati sindaco. Soprattutto sono maschi, 2.974 su 3.602 candidati sindaci. L'età media 50 anni. Tutta l'analisi, insomma, di quali sono i numeri a pagina 234 del Sole 24 Ore sulla carica dei 77.000 che si presentano alle elezioni. Però incredibilmente si parla ancora per il momento a pari grado sia delle amministrative tra una settimana sia del referendum a ottobre. E allora partiamo dal referendum, ancora articoli. Io ho fatto questo appello ai direttori dicendo di cercare di sospendere gli articoli sul referendum e farli partire, non so, dal 1 settembre, almeno un mese prima, e invece no. Continuano. Allora, Marco Franchi, pagina 3 del Fatto Quotidiano, è l'apertura del Fatto, le bugie arrivano per posta, denuncia il Fatto Quotidiano, Renzi manderà una sorta di opuscolo, come fece Berlusconi, un opuscolo di propaganda a tutte le famiglie italiane per il sì al referendum. Ovviamente sulla copertina c'è il selfie di Renzi con le solite frasette da cioccolatini: l'Italia che non si arrende, l'Italia che ci prova, l'Italia che continua a crederci. Insomma, il Fatto Quotidiano denuncia questo sì al referendum con Renzi che spedisce le bugie per posta. E a proposito di referendum, Cuperlo non ci sta. Intervistato da Goffredo De Marchis su Repubblica, è rimasto infuriato dalla dichiarazione del ministro della cultura Franceschini, che ha detto chi vota no, vota, non vota per il bene del paese, una cosa del genere. Cooper lo dice, Franceschini dimostra una profonda disonestà politica e intellettuale. Che ci sto a fare io nel Partito Democratico? Dilemmi del lunedì mattina. Basta offenderci, tra i Dem c'è chi vuole cacciarci dal partito. Interviste e dibattiti che certo voi che state gustando il vostro cappuccino o siete in fila magari sul grande raccordo anulare o siete in coda o state portando i bambini a scuola non avrete tra il primo dei mille vostri pensieri il destino di Cooperlo all'interno del Partito Democratico, ma capisco, mezza pagina di Repubblica è invece dedicata a questo perché insomma sono tematiche che interessano molto a loro. A proposito sempre di referendum, addirittura Federico Geremicca sulla Stampa, pagina 7, racconta che se dovesse vincere il no e quindi Renzi dimettersi, è già pronto il governo, gli scenari senza Renzi. Chi sono i due uomini più accreditati a sostituire Renzi in un governo senza Renzi? Forse Piero Grasso, presidente del Senato, forse Piercarlo Padoan, ministro dell'economia. Sono questi due gli uomini che potrebbero, in caso di no al referendum, sostituire Renzi al governo. Chi lo sa, forse c'è un terzo, anche Mauro Meazza, ma viene tenuto un po' sottaciuto perché cerca di partire da dietro e poi cercare di superare alla Nibali, no, all'ultimo momento. Mauro, buongiorno. Buongiorno, ma mi sembra un po' prestino adesso per occuparsi di questa cosa. Sì, vabbè. Poi sai che essendo lunedì io sono posizionato sulla sedia. Sì, deve decantare. Sono salito sulla sedia. Declamare. E adesso vado a declamare gli endecasillabi del lunedì, con il tuo permesso, Alessandro. Prego, ma anche senza. Prego. 70 volte 1000 e ancora 7 non bastano a esaurire i candidati che in liste molto illustri oppur neglette il Sol 24 Ore oggi ha contati. Ci troverai l'imberbe ed il decano e l'aspirante sindaco di grido. Promettono tutti di darti una mano, purché nel municipio faccia nido. Ma intanto che s'aspetta di votare, la crisi ancora morde alli calcagni e li consumi ancor vedi calare, persino nelle cose che ti mangi. E ancora, ti daremo più occasioni di leggere di fisco e di sentenza, comprese le curiose decisioni ove il diritto brilla per assenza. Infine, abbiamo visto i madrileni pugnar per quel trofeo che nel giurassico di vincer pure noi non si era alieni. Ed ora invece c'è rimasto il traffico. Alessandro Milan, lo scasso cucchione dall'informazione. Vabbè, evviva Meazza. Intanto Meazza immenso come sempre, ci scrivono, va bene, venendo alle amministrative, elezioni che sono un po' più a scadenza, a vista rispetto al referendum, diciamo che la battaglia soprattutto su Roma è quella che si anima. La polemica che oggi è più presente sui giornali è dopo l'apparizione del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio al Movimento 5 Stelle, intervistato da Luce Annunziata, la giunta Raggi, l'annuncia Di Maio è bufera. Questo è il titolo di pagina 7 del Messaggero, perché l'esponente del direttore 5 Stelle ha detto oggi si annuncia la struttura, cioè ieri ha detto domani, quindi oggi si annuncerà la struttura. 9 poltrone, poi annuncia soprattutto la nascita dell'assessorato a tempo. Che vuol dire l'assessorato a tempo? L'assessore a tempo, la Raggi lancia la giunta per Roma, anche questo è il titolo di Repubblica, cioè ci saranno 9 assessori più uno a tempo. L'assessore che si occuperà di particolari dossier sulle partecipate, per cui avrà da fare un compito una volta esaurito il quale l'assessorato di fatto decade. Per la verità Repubblica, con Annalisa Cuzzocrea e Mauro Favale, annuncia in anticipo, secondo indiscrezioni, quelli che sarebbero alcuni dei nomi che farebbero parte della giunta Movimento 5 Stelle. E tra questi nomi, secondo Repubblica, ci sono Salvatore Romeo, funzionario del Comune di Roma, Daniele Frongia, lo statistico che ha lavorato al dossier sugli sprechi su cui 5 Stelle poggiano gran parte del loro programma, Enrico Stefano, laureato in giurisprudenza, poi Vincenzo Perticaro, avvocato esperto di casa e anche un ex calciatore, Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma, oggi presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, che secondo Repubblica è considerato possibile come assessore allo sport. Ovviamente nel caso Virginia Raggi dovesse vincere, ma comunque domenica ci sarà il primo turno. C'è anche, secondo il Corriere, l'appello di Berlusconi ai rassegnati. In 26 milioni non vanno a votare. E quindi Berlusconi dice vadano a votare. E insomma, ci sarà le schermaglie finali l'ultima settimana, staremo a vederle. Voglio segnalarvi però un'intervista, la prima intervista al neo ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, 43 anni, intervistato da Andrea Ducci a pagina 12 del Corriere della Sera, parla soprattutto del trattato transatlantico su investimenti e commercio. Queste sono due pagine interessanti, il TTP sul Corriere della Sera, e dice sì agli accordi con gli USA ma niente soluzioni al ribasso. Carlo Calenda dice se non ci saranno progressi l'accordo non si chiuderà, si dice dunque un po' pessimista secondo il Corriere della Sera. In ballo c'è l'accesso da parte di imprese europee alle grandi commesse pubbliche statunitensi, oltre che la necessità di tutelare i prodotti agroalimentari italiani, impedendo per esempio le confusioni sul cosiddetto Italian Sounding, il caso più tipico è quello del formaggio asiago confezionato tra il Minnesota e l'Illinois. Allora, dice Calenda, l'Italia è uno dei paesi che beneficerebbe in misura maggiore dell'accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti. Il trattato ha obiettivo di ridurre dazi e barriere non tariffarie che gravano sulle esportazioni sia americane sia europee. Facile immaginare cosa significhi per un'economia come quella italiana che poggia per esempio sull'export agroalimentare e tessile. Le campagne di informazione contrarie al TTP denunciano il rischio che l'accordo privilegi le grandi multinazionali a danno delle medie imprese, ma è una tesi assurda, dice Calenda, poiché l'eliminazione di dazi e tariffe agevolerà proprio le medie e piccole aziende. Riguardo poi al cosiddetto Italian Sounding, cioè la tutela dell'agroalimentare, dice Calenda, per quanto riguarda i prodotti che sembrano italiani ma non lo sono, c'è un'urgenza di stabilire regole precise. Un caso pratico è appunto il formaggio asiago prodotto nel Wisconsin e distribuito nel mercato nordamericano. Premesso che la trattativa non può portare alla richiesta di interromperne la produzione, chiudendo uno stabilimento che magari esiste da decenni, il tema è piuttosto fissare regole che impediscano confusioni, evitando per esempio che un formaggio americano possa riportare una bandierina italiana o altri elementi fuorvianti. Comunque, dice Calenda, di fronte alla domanda, ma lei sembra pessimista, cosa accadrà se il negoziato fallisce? Dice il ministro dello sviluppo economico, perderemo un'occasione di crescita straordinaria, soprattutto la possibilità di definire regole standard avanzate e globali da far valere verso quei paesi che non accettano regole uguali per tutti gli attori della globalizzazione. Tra l'altro c'è poi una pagina 13 nella quale ci sono così i pro e i contro. Ci sono anche interviste per esempio a Giovanni Daghetta, che produce 20.000 quintali di riso, oppure a Carlo Triarico, produttore di carne biodinamica, o ancora a Federico Marchini, che è presidente nazionale dell'Associazione Agricoltori Biologici. Insomma, i dubbi, le proposte e anche appunto i dubbi su questo trattato importante. Mi ha colpito anche questa pagina che c'è sulla Stampa, che riguarda, sentite il titolo, Milano-Roma in mezz'ora con il super treno del 2050. Luigi Grassia racconta come al Congresso Mondiale di Milano ci sia il futuro del settore ferroviario, tra cui questo nuovo progetto che si chiama Hyperloop, oggetto per ora di un test di fattibilità nel Nevada, e che potrebbe portarci nel 2050, attraverso una tecnologia anche mostrata con fotografia, una tecnologia davvero incredibile, cioè un treno che scorre lungo un tubo, dentro un tubo e su un binario a levitazione magnetica, a portare, ospitando per la verità 40-50 passeggeri, non di più, a portarci da Milano a Roma alla velocità, quasi alla velocità del suono, e quindi in mezz'ora. Beh, interessante questa pagina 15 della Stampa, che racconta di questa possibile svolta futura. E questo, ovviamente, staremo a vedere che cosa succede. Vi segnalo anche un articolo di Paolo Mieli, è la prima del Corriere della Sera, l'editoriale del Corriere della Sera, che riguarda una vicenda: scienziati costretti a fuggire. È una vicenda che parte dall'America dopo l'11 settembre 2001, quando gli Stati Uniti si preoccuparono di essere infettati dai terroristi islamici con qualche virus, e allora fu individuata un'azienda nel 2003, un'azienda che avrebbe potuto rendersi complice del misfatto. Ne fu individuata nel Maine Biological Laboratories, e nelle pieghe dell'investigazione fu messo sotto il riflettore un manager del colosso Sanofi, Paolo Candoli, accusato di essersi fatto spedire in Italia un ceppo della Viaria. Poche settimane prima che il processo giungesse a conclusione, gli americani inviarono ai nostri NAS i verbali perché accertassero se in merito a quella spedizione c'era stato qualcosa di irregolare. I nostri NAS ci misero 10 anni prima che dal lavoro si sapesse qualcosa, e nel 2014 se ne ebbe notizia all'italiana, e cioè qualcuno passò le carte all'Espresso. Da qui una vicenda che mette al centro anche una studiosa importante italiana, Ilaria Capua, che scrive: Paolo Mieli assurdamente accusata di aver posto le condizioni per il reato di epidemia, ora chiamata a lavorare negli Stati Uniti, ed è l'ennesima dimostrazione, racconta Paolo Mieli, di come l'Italia disprezzi il metodo della ricerca e stia contribuendo a creare una nuova categoria di migranti, e cioè gli scienziati che in questo caso si trovano accusati da un'accusa assurda, secondo Paolo Mieli, e cioè quella di, appunto, avere commerciato un virus che potrebbe provocare un'epidemia di aviaria in Italia. E si racconta la straordinaria situazione di Ilaria Capua, considerata appunto una delle scienziate più celebri italiane e nel mondo, e di cui andare orgogliosi, e che in Italia è indagata appunto per questo reato di avere diffuso e cercare di diffondere addirittura un'epidemia. È una vicenda molto complessa, che è raccontata però da Paolo Mieli in prima pagina del Corriere della Sera, e che vi voglio segnalare. Quando siamo alla conclusione, invece, alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, ci siamo, eccolo qua: se tutto diventa degno di annuncio, nulla lo è davvero. Vengono rottamate le annunciatrici televisive in Rai. Ma chi se ne frega!